Poco prima delle 9 arrivammo all'arcivescovado. Fummo condotti in una sala del piano superiore. Vi trovammo gli altri marescialli e le loro mogli e ci fu servito del caffè caldo. Poi ci affacciamo alla finestra. Davanti alla porta maggiore di Notre Dame si svolgevano delle scene selvagge. 6 battaglioni di granatieri, rinforzati da usseri della guardia, cercavano di mantenere l'ordine. Sebbene le porte della cattedrale già fossero aperte per gli invitati fin dalle 6 del mattino, si lavorava ancora nell'interno di Notre Dame febbrilmente all'addobbo. Una doppia fila di guardie nazionali respingeva la folla incuriosita. 80.000 uomini armati fanno la guardia all'incoronazione dell'imperatore, ha confidato Murat a Gian Battista, che come governatore di Parigi ha la responsabilità di questo servizio. A un certo momento il prefetto di polizia fece sbarrare ai veicoli tutte le strade d'accesso alla chiesa, cosicché le dame e i signori invitati dovettero dirigersi a piedi alla porta maggiore. Soltanto a noi, che dovevamo partecipare al corteo dell'incoronazione, fu consentito di deporre le nostre sopravvesti nel palazzo dell'arcivescovado. Gli altri invitati dovettero entrare a Notre Dame senza mantelli. E io rabbrividii osservando le signore che avevano lasciate le loro carrozze e che ora avanzavano a passettini in quel gelo nei loro sottilissimi abiti di seta. Ad un tratto si svolse un buffo episodio. Un gruppo di queste signore si imbatté nel corteo dei magistrati. I giudici erano ravvolti in paludamenti di panno rosso. Galantemente offrirono i loro mantelli e le dame intirizzite accettarono volentieri quel riparo. Pur con le finestre chiuse, udimmo le omeriche risate che salirono dalle file degli spettatori. Da ultimo arrivarono ancora alcune carrozze, i principi stranieri che sono considerati ospiti d'onore. Quelli della terza occupazione, sussurrò Gian Battista. Napoleone paga a queste altezze tutte le spese di viaggio e di soggiorno a Parigi. Quello è il margravio del Baden, mi spiegò Gian Battista. Ed ecco anche il principe di Hessen-Darmstadt e subito dietro di lui il principe di Hessen-Homburg. Gian Battista pronunciava senza fatica questi impossibili nomi germanici. Come ci riesca non lo so. Io mi allontanai dalla finestra e finalmente mi servirono una seconda tazza di caffè. Intanto giù alla posta si era impegnata una discussione violenta, ma io non me ne accorsi se non quando la signora Lann mi si avvicinò e disse: «Credo che questo tafferuglio giù alla porta riguardi voi, cara signora Bernadotte.» Proprio così, quel tafferuglio riguardava me. Un signore con una giubba color tabacco e con la cravatta di pizzo messa per traverso lottava invano con le sentinelle che gli precludevano l'entrata. «Lasciatemi andare da mia sorella, da Madame Bernadotte, Eugenia!» Quel signore vestito di marrone era Stefano. Quando mi vide, si diede ad urlare come se affogasse: Eugenia, Eugenia, aiuto! Scusate, disse alle guardie, come mai non lasciate entrare mio fratello? E tirai dentro Stefano. Le guardie brontolarono. La consegna è di lasciar passare soltanto le signore e i signori del corteo, o qualche cosa di simile. Io chiamai Gian Battista e facemmo sedere Stefano, che era tutto sudato per l'eccitazione, su di una poltrona. Aveva viaggiato giorno e notte da Genova a Parigi per poter assistere all'incoronazione. Tu sai bene, Eugenia, quanto mi senta vicino all'imperatore, il mio amico di gioventù, l'uomo nel quale fin da allora riponevo tutte le speranze. Gemeva, aveva un'aria molto infelice. Ma perché sei così disperato? Il tuo amico di gioventù sta per essere incoronato imperatore, che altro vuoi ancora? Gli domandai. Voglio esserci anch'io, implorò Stefano, assistere alla cerimonia. Avreste dovuto arrivare prima a Parigi, caro cognato. Ormai tutti i biglietti d'ingresso sono stati distribuiti, osservò calmo Gian Battista. La mia carrozza di posta speciale è stata continuamente impedita a proseguire per il maltempo, si scusò. Forse Giuseppe può dargli una mano, bisbigliai a Gian Battista. Qui noi non possiamo fare più nulla. Giuseppe è da Sua Maestà, alle Tuilerie, non può ricevere nessuno, sono stato già a cercarlo. Si lamentò Stefano. Senti, Stefano, in fondo Napoleone tu non l'hai mai potuto soffrire. e non ti può importare tanto di assistere alla sua incoronazione. Cercai di consolarlo, ma Stefano scattò. Come puoi dire questo? Non lo sai forse che a Marsiglia io ero il più stretto confidente dell'imperatore, il miglior amico, il suo... Ah, io so soltanto che tu eri indignato perché volevo fidanzarmi con lui, dissi io. Allora Giambattista batté sulla spalla di Stefano. Davvero? Volevate impedire che Desirée si fidanzasse con lui? Cognato Stefano, voi mi siete straordinariamente simpatico. E anche se dovessi prendervi in braccio nella chiesa zeppa di gente, io vi farò entrare. Ridendo si voltò e chiamò: Junot, Berthier, dobbiamo far entrare di contrabbando in Duomo il signor Stefano. Venite, abbiamo già combattuto ben altre battaglie. E allora io vidi dalla finestra come mio fratello Stefano, coperto da 3 uniformi di marescialli, scomparisse dentro Notre Dame. Le uniformi dei marescialli tornarono poi ancora di fuori e mi si informò che Stefano era stato allogato nel bel mezzo del corpo diplomatico. È seduto accanto al ministro di Turchia, mi comunicò Giambattista. Il turco porta il turbante verde e... Tacque subito perché era comparso il corteo del Papa. Precedeva un battaglione di dragoni a cavallo, poi veniva la guardia svizzera. Dietro a questa vedemmo un frate che cavalcava un asino e reggeva una croce tra le mani levate. Si è dovuto prendere un asino in affitto e De Pro ha detto che costa 66 franchi al giorno, sussurrò il maresciallo Berthier. Giambattista rise. Seguì con lo sguardo il cocchio del Papa. Era tirato da 8 cavalli bianchi e naturalmente noi ci accorgemmo subito che era la carrozza di gala dell'imperatrice messa a disposizione del pontefice. Il Papa entrò nel palazzo dell'arcivescovado, ma non ci diede modo di salutarlo. Indossò in fretta i paramenti in una delle stanze a pian terreno, poi, alla testa dell'alto clero, uscì dal palazzo e lentamente a piedi si avviò verso la porta maggiore di Notre Dame. Qualcuno aprì una finestra. La folla si manteneva silenziosa, solamente delle donne si inginocchiavano alla vista del Papa, mentre la maggior parte degli uomini non si levava neppure il berretto. Ad un tratto il Papa si fermò, disse qualche cosa e fece il segno della croce su di un giovane che se ne stava ritto in prima fila a testa alta. In seguito sapemmo che Pio VII aveva fatto scorrere lo sguardo su quel giovane e su tutti gli altri che stavano in piedi e aveva detto: Credo che la benedizione di un vecchio non possa mai fare del male. 2 volte ancora il Papa tracciò il segno della croce nella limpida aria gelata, poi la sua bianca figura scomparve nella porta maggiore della cattedrale e come una rossa ondata lo seguirono le vesti dei cardinali. Che cosa succede adesso a Notre Dame? Domandai. E qualcuno mi spiegò che all'ingresso del pontefice il coro della cappella imperiale avrebbe intonato il Tuo es Petrus e che il Papa si sarebbe seduto su di un trono che era stato eretto a sinistra dell'altare maggiore. E adesso l'imperatore dovrebbe già essere qui, aggiunse. Ma l'imperatore fece aspettare il popolo di Parigi, i reggimenti fuori sede, gli ospiti eminenti e il capo supremo della Sacra Romana Chiesa per un'altra ora intera. Finalmente, delle salve d'artiglieria annunciarono che l'imperatore aveva lasciato le Tuilerie. Non so perché, ma di colpo tutti tacemmo. In silenzio ci accostammo ai grandi specchi del pian terreno. Muti i marescialli rassettarono le loro decorazioni, tirarono le giubbe turchine e dorate e si fecero porre sulle spalle i mantelli azzurri. Mentre mi passavo sulla faccia il piumino della cipria, mi accorsi con stupore che le mie mani tremavano. Come un rombo temporalesco risuonò prima lontano, poi sempre più alto e da ultimo vicino e fremente il grido «Vive l'Empereur! Vive l'Empereur!». Murat a cavallo apparve nella sgargiante, dorata uniforme di governatore di Parigi. Dietro a lui, con passo sonante, avanzarono i dragoni, poi araldi a cavallo, vestiti di velluto lilla con aquile d'oro. Io guardavo sbalordita tutto quello sfarzo di lilla. E pensare che una volta, con i miei piccoli risparmi, mi ero proposta di comprargli un'uniforme nuova perché la sua era troppo consumata. Arrivavano e si fermavano l'uno dopo l'altro, cocchi dorati, e ciascuno era tirato da 6 cavalli. De Pro scese dal primo, gli aiutanti personali dell'imperatore dal secondo, poi Poi arrivarono i ministri e infine, in una vettura che era tempestata di api dorate da cima a fondo, le principesse imperiali. Le principesse erano tutte in bianco e portavano delle piccole corone sui capelli. Giulia mi si avvicinò in fretta e strinse la mia mano. Le sue dita erano di ghiaccio, purché tutto vada bene, disse col tono della mamma. Sì, ma bada alla tua corona, ti sta tutta storta, le bisbigliai per risposta. Come un sole apparve in questo giorno invernale il cocchio dell'imperatore. Era dorato da cima a fondo e adorno d'un fregio di medaglioni di bronzo. Queste figure a rilievo rappresentavano i vari dipartimenti ed erano congiunte fra loro da foglie di palma dorate. Sul tetto della vettura sfavillavano quattro enormi aquile di bronzo che tra gli artigli serravano ramoscelli d'alloro. Su di esse posava una massiccia corona dorata. Il cocchio era foderato di velluto verde, il colore della Corsica. Otto cavalli dai pennacchi bianchi si fermarono sbuffando davanti al palazzo. Noi eravamo usciti dalla porta e facevamo ala. Nell'angolo destro del cocchio sedeva l'imperatore. Napoleone era vestito di velluto purpureo e quando scese vedemmo che portava dei larghi calzoni a sbuffi e calze di seta bianche con ricami di perle. In quella tenuta sembrava assolutamente un altro, un cantante d'opera un po' troppo corto di gambe. Oh, perché quei calzoni a sbuffi alla spagnuola, Napoleone? Perché quei calzoni a sbuffi? Invece, l'imperatrice che gli sedeva alla sinistra sembrava più bella che mai. Tra i suoi riccioli infantili sfavillavano i più grossi brillanti che io abbia mai visti. Sebbene Giuseppina fosse molto imbellettata, mi avvidi subito che il suo sorriso raggiante e giovane, Dio mio, quanto giovane, le veniva dal cuore. L'imperatore l'aveva sposata in chiesa e la faceva incoronare. Non aveva più timori. Ma quando Giuseppe e Luigi, che avevano occupato i posti anteriori del cocchio imperiale, mi passarono davanti, non potei credere ai miei occhi. Come si erano addobbati quei due, vestiti di bianco da capo a piedi, perfino con scarpette di seta bianca ornate di rosette d'oro. Ed io scoprì ad un tratto che Giuseppe aveva messo su pancetta, ma mentre gli sogghignava come il cavallo a dondolo verniciato di fresco del mio Oscar, Luigi, torvo nello sguardo, entrava nel palazzo con il pesante passo dei suoi piedi piatti. Nel palazzo Napoleone e Giuseppina indossarono rapidamente i mantelli per l'incoronazione. Per un momento Giuseppina, affaticata, strinse le labbra per non lasciarsi piegare dal peso del suo manto di porpora. Ma tosto Giulia ed Ortensia, Elisa, Polete e Carolina afferrarono lo strascico ed ella respirò, sollevata. Mentre Napoleone si dava da fare per infilarsi un paio di guanti, le cui dita erano irrigidite dai ricami dorati, il suo sguardo passò per la prima volta su di noi. «Possiamo entrare?» De Pro aveva già distribuito tra noi le diverse insegne. Ora aspettavamo il suo segnale per disporci come avevamo fatto alle prove. Il nostro sussurrare impacciato e il nostro contegno smarrito mi facevano pensare a un funerale. I miei occhi cercarono Giambattista. Era ritto tra gli altri marescialli e reggeva il cuscino di velluto con il collare della Legion d'Onore dell'imperatore che doveva portare nel corteo. Pensieroso, si mordicchiava il labbro inferiore. «Stiamo facendo il funerale della Repubblica», pensai. «Papà, tuo figlio ha avuto un permesso d'entrata e tua figlia Giulia, addirittura principessa, porta in capo una coroncina d'oro. Che cosa aspettiamo ancora, De Pro?» La voce di Napoleone squillò impaziente. «Sire, era inteso che Madame Mère avrebbe dovuto aprire il corteo dell'incoronazione e Madame Mère...» «La mamma non è tornata», disse Luigi. Un accento di gioia maligna vibrava nella sua voce. Napoleone aveva spedito in Italia un corriere dopo l'altro per pregare sua madre di trovarsi a Parigi in tempo per l'incoronazione. Da ultimo, Madame Letizia non osò più resistere alle sue pressioni. Si era accomiatata dall'esule suo figlio Luciano e si era messa in viaggio. «Ne siamo molto dolenti», disse Napoleone con voce incolore. «De Pro, entriamo nella cattedrale». Le fanfare squillarono. Lenti e solenni, gli araldi lilla e oro avanzarono verso Notre Dame. Dei paggi verdi si unirono ad essi. Poi fu la volta di De Pro. il maestro delle cerimonie. Dietro di lui sgambettarono appaiate, rigide come marionette, le 16 mogli dei marescialli. Poi si mosse Sécurier e subito dopo di lui Murat. Sécurier con un cuscino sul quale era deposto l'anello dell'imperatrice. Murat con la corona di Giuseppina. Gelida mi colpì in faccia l'aria quando uscii all'aperto. Reggevo davanti a me come una sacra offerta il cuscino col fazzoletto di Trina. Quando passai davanti alla folla, che era tenuta indietro da un impenetrabile cordone di soldati, si levarono alcune grida isolate: «Viva Bernadotte! Bernadotte!» Io tenevo gli occhi fissi sulla schiena ricamata d'oro di Murat, mentre recavo il fazzoletto di Giuseppina attraverso Notre-Dame. Il rombo dell'organo e il profumo degli incensi affogarono tutti i miei pensieri. Solamente quando fummo giunti al termine della navata, Murat si fermò e si mise di fianco. Io vidi l'altare maggiore e i due troni dorati. Sul trono a sinistra, immobile come una statua, sedeva un piccolo signore vestito di bianco. Pio VII aspettava quasi da 2 ore Napoleone. Mi collocai a fianco di Murat e voltai la testa. Vidi Giuseppina muovere verso l'altare con gli occhi spalancati, che nello scintillio delle candele parevano risplendere umidi e con un estatico sorriso sulle labbra. Giunta al più basso gradino dei due troni, a destra dell'altare, ella si fermò. Vicinissime davanti a me c'erano adesso le principesse imperiali che reggevano lo strascico di Giuseppina. Quasi mi slogai il collo per vedere l'entrata di Napoleone. Comparve per primo Kellermann con la grande corona imperiale, dietro di lui Pérignon con lo scettro e Lefebvre con la spada di Carlo Magno. Poi Giambattista con il collare della Legion d'Onore, dietro di lui Eugenio di Beauharnais con l'anello dell'imperatore e poi finalmente il buon Berthier con il globo imperiale e dietro di lui lo zoppicante ministro degli esteri Talleyrand con un canestro di fili d'oro nel quale l'imperatore durante la cerimonia avrebbe dovuto lasciar cadere il suo manto. Chiare echeggiarono le note della Marsigliese nel canto gioioso dell'organo. Napoleone avanzò lentamente verso l'altare. Giuseppe e Luigi reggevano lo strascico del suo mantello di porpora e finalmente Napoleone si trovò a fianco di Giuseppina. Dietro di lui si serrarono i suoi fratelli e i marescialli. Il Papa si levò e celebrò la messa. E ad un tratto De Pro fece un impercettibile segno al maresciallo Kellermann. Kellermann si fece innanzi e porse al Papa la corona. Pareva che fosse molto pesante, perché le mani delicate del Papa facevano fatica a tenerla sollevata. Nello stesso momento, Napoleone lasciò scivolare giù dalle spalle il mantello di porpora. I fratelli lo raccolsero e lo consegnarono a Talleyrand. L'organo cessò di suonare. Chiara e solenne pronunciò il Papa la formula della benedizione. Poi sollevò la pesante corona per deporla sul capochino di Napoleone, ma il capo di Napoleone non si chinò. Le sue mani, chiuse nei guanti dai ricami d'oro, si levarono e afferrarono con rapida mossa la corona. Per una frazione di secondo Napoleone tenne la corona tra le mani alzate, poi, lentamente, se la pose in capo. Non io soltanto, ma anche tutti gli altri sussultarono. Napoleone aveva violato il cerimoniale convenuto e si era incoronato da sé. L'organo esultava. Lefebvre consegnò all'imperatore la spada di Carlo Magno. Giambattista gli mise al collo il collare della Legion d'Onore. Berthier gli pose in mano il globo imperiale e Pérignon l'aureo scettro. Infine, Talleyrand gli coperse le spalle col manto di porpora. Lentamente, l'imperatore ascese i gradini del trono. Giuseppe e Luigi sollevarono di nuovo lo strascico e si collocarono ai due lati. «Vivat imperator in eternum!» proclamò il Papa. «Vivat imperator in eternum!» Poi Pio VII tracciò il segno della croce sul volto di Giuseppina e la baciò sulla guancia. Ma Napoleone aveva di nuovo disceso i pochi gradini del suo trono e tendeva la mano. Murat allora consegnò la corona di Giuseppina non al Papa ma a Napoleone. Per la prima volta in questo giorno l'imperatore sorrise. Cauto, cautissimo per non guastarle l'acconciatura, depose la corona sui suoi riccioli infantili. Poi le mise la mano sotto il gomito per guidarla su per i gradini del trono. Giuseppina fece un passo Vacillò e quasi cadde riversa. Con intenzione avevano abbandonato il suo manto. Elisa, Paulette e Carolina volevano farla cadere, renderla ridicola nel momento del suo grande trionfo. Ma impiegando tutte le loro forze, Giulia e Ortensia tennero ben saldo lo strascico pesante. Napoleone afferrò energicamente Giuseppina per il braccio e la sorresse. No, ella non cadde. Aveva soltanto incespicato nel primo gradino del trono. Mentre delle giovani, delle antiche famiglie patrizie francesi, le famose vergini illibate che hanno causato tanti grattacapi a De Pro, muovevano verso l'altare reggendo delle candele, il Papa e il clero si ritirarono nella camera del tesoro. Napoleone sedeva con volto impassibile accanto a Giuseppina sul trono. Con gli occhi socchiusi guardava fisso davanti a sé. Dal momento dell'ascesa al trono io mi trovavo fra Murat e Talleyrand nella prima fila del seguito. A che cosa penserà in questo momento? Meditavo tra me. A che cosa può pensare un uomo che si è orora incoronato imperatore dei francesi? Non riuscivo a staccare lo sguardo dal suo viso immobile. Ecco che un muscolo della sua bocca si è mosso. Egli ha serrato le labbra e ha represso uno sbadiglio. In quel momento il suo sguardo cadde per caso su di me, gli occhi socchiusi si aprirono e per la seconda volta in quel giorno sorrise. Non dolcemente come dianzi, quando aveva incoronato Giuseppina, ma liberamente, lieto e sì, come allora. Proprio come allora, quando facevamo le corse e lui per gioco mi lasciava vincere. «Non te l'ho predetto?» mi dicevano i suoi occhi. «Allora, presso la siepe?» Solo che tu non mi credevi, tu desideravi tanto che fossi espulso dall'esercito perché volevi fare di me un negoziante di sete. I nostri occhi si fissavano ancora. Lui sedeva lassù, col bavero di armellino che gli arrivava fino alle orecchie e la pesante corona sul capo raso, eppure per un momento fu ancora quello di una volta. Il duca d'Enghien, mi ricordai. E Luciano, che per primo è andato in esilio, e Moreau e gli altri, cittadini francesi noti ed ignoti, che lo hanno seguito. Mi sforzai di distogliere lo sguardo da lui e non guardai più al trono se non quando udii la voce del presidente del Senato. Il presidente del Senato stava in piedi davanti a Napoleone e svolgeva un rotolo di pergamena. Con una mano sulla Bibbia e con l'altra mano levata, l'imperatore ripeté con lui la formula del giuramento. La sua voce suonava limpida e fredda, come se impartisse un ordine. Napoleone I giurava di serbare la libertà religiosa, politica e civile del popolo francese. Parigi, 2 settimane dopo l'incoronazione. Pochi giorni fa l'imperatore ha consegnato le aquile a ciascun reggimento. Abbiamo dovuto radunarci tutti al campo di Marte e Napoleone aveva di nuovo indossato il manto dell'incoronazione e si era messo in capo la sua grossa corona. Ciascun reggimento ebbe una bandiera sulla quale si librava un'aquila dorata. Sotto l'aquila ondeggiava il tricolore. Le aquile non dovranno mai cadere in mano al nemico, così ha detto l'imperatore e ha promesso nuove vittorie alle nostre truppe. Siamo rimasti in piedi per molte ore in una tribuna mentre i reggimenti ci sfilavano davanti. Stefano al mio fianco ha urlato tanto per l'entusiasmo che si è arrochito e mi ha quasi assordata. Nevicava di nuovo. La parata delle truppe non finiva mai e noi avevamo i piedi bagnati. Io ebbi tempo di ripensare a tutti i preparativi che si stavano facendo per la festa dei marescialli che si celebrerà all'Opéra. Perché il maestro delle cerimonie aveva fatto capire ai marescialli che dovevano organizzare una festa in onore dell'imperatore. Essa doveva riuscire il più splendido ballo che si potesse immaginare e per questo fu presa in affitto l'Opéra. Noi marescialle abbiamo tenuto parecchie riunioni e abbiamo riveduto la lista degli invitati. Non si doveva dimenticare né offendere nessuno. Monsieur Montel ci impartì una lezione nella quale imparammo come dovremo andare incontro alla coppia imperiale e condurre Napoleone e Giuseppina nella sala della festa. De Pro ci fece sapere che Napoleone avrebbe dato il braccio ad una marescialla, mentre un maresciallo avrebbe condotto l'imperatrice al suo trono. Dopo ciò si discusse lungamente quale marescialla e quale maresciallo avrebbero dovuto avere questo onore. e finalmente venne prescelto per l'imperatrice Murat, che è marito di una principessa imperiale. Ma per quanto riguardava il braccio dell'imperatore, si era indecise tra Madame Berthier, la più anziana delle marescialle, e me, sorella della principessa imperiale Giulia. Io riuscii a convincere le altre che la grassa Berthier era l'unica personalità adatta a porgere il saluto all'imperatore. Questo perché ero furiosa contro Napoleone, che continuava a far attendere a Giambattista il comando autonomo e possibilmente molto lontano da Parigi, che egli tanto desidera. La mattina del giorno stabilito per la festa capitò improvvisamente da me Paulette. Era accompagnata da un grande violinista italiano e da un capitano francese dei dragoni. Li fece sedere tutti e due su un sofà nel mio salotto e si ritirò con me nella camera da letto. «Quale dei due credi che sia il mio amante?» mi domandò ridendo. Nei suoi capelli biondoscuri sotto il cappellino di velluto nero scintillava della polvere d'oro. Nelle sue piccole orecchie splendevano degli smeraldi del tesoro familiare dei principi borghese. La sua gonna di velluto verde e violetto inguainava stretta ai suoi fianchi deliziosi e ben torniti, e la camicetta di velluto nero disegnava con sorprendente evidenza le punte dei suoi seni. Le sue sopracciglia erano disegnate in nero, esattamente come allora quando Paulette aveva 15 anni, ma non più con un pezzo di carbone tolto dalla cucina di sua madre, bensì con un pennello finissimo. Intorno agli occhi sfavillanti, che sempre mi ricordano gli occhi di Napoleone, posavano ombre profonde. «Dunque, quale dei due è il mio amante?» ripeté. «Non seppi indovinarlo». «Tutti e due!» gridò Paulette trionfante e si sedette al tavolino della mia toeletta. Lì c'era sempre la cassettina d'oro. «Chi ha così poco gusto da regalarti un portagioielli fregiato di questa orribile aquila imperiale?» si informò. «Oh, adesso devi indovinare tu!» risposi. Paulette corrugò la fronte. Questo genere di indovinelli la divertiva e la ruminava eccitata. A un tratto respirò forte e rumorosamente. «È stato? Dimmelo! È stato?» Io non battei ciglio. «Devo questa cassetta alla sconfinata bontà del nostro padre della patria», dissi. Paulette emise un fischio da ragazzo di strada, poi tutta agitata. «Non capisco! Adesso lui inganna Giuseppina con Madame du Châtel, sai? Con quella dama di corte dagli occhi viola e dal naso lungo». Io arrossì. «Napoleone mi ha pagato, nel giorno della sua incoronazione, un vecchio debito del tempo di Marsiglia, non altro», dissi irritata. Paulette tese con un gesto di difesa le piccole mani ingioiellate dai diamanti della casa dei principi borghese. «Dio ne guardi, piccola, naturalmente, non altro!» Poi tacque un poco. Parve riflettere. «Sono venuta a parlarti di mia madre», riprese di punto in bianco. «Mamma è arrivata ieri in gran segreto. Credo che nemmeno Fouché sappia che la si trova a Parigi. È in casa mia e tu devi aiutarla». «Chi devo aiutare?» domandai io, che non avevo capito. «Tutti e due, Madame Mère e anche lui, Napoleone, il ragazzo incoronato», rise, ma suonò falso. «Sono in pensiero. Napoleone pretende che mamma debba osservare il cerimoniale e dopo rendergli omaggio alle Tuileries. Figurati, con tanto di riverenze e di etichette, con tutta la relativa grande orchestra». Si interruppe. Inutilmente cercavo di immaginarmi Madame Letizia sprofondata in un inchino protocollare davanti al figlio. «E lui è furibondo, perché lei ha viaggiato lentamente apposta per non assistere all'incoronazione». Pensierosa, Paulette si succhiava il labbro inferiore. «È irritato perché mamma non ha voluto essere presente con gli altri al suo trionfo. Ma prova nostalgia di lei e... Eugenia, Desiree, signora marescialla, metti la pace tra quei due, fingendo che sia per caso, capisci? E nel momento dell'incontro lasciali soli, così non avrà importanza che si sia osservato il cerimoniale. Ti va?» «Oh, siete davvero una famiglia terribile», sospirai. Ma Paulette non se l'ebbe a male. «Questo lo hai sempre saputo, e sai del resto che io sono la sola di tutti i suoi fratelli e sorelle a cui Napoleone voglia veramente bene?» «Sì, questo lo so», dissi, e pensai ad una certa mattina in cui Paulette era venuta con me dal comandante militare di Marsiglia. «Gli altri non pensano che a ereditare da lui», dichiarò Paulette, e incominciò a lustrarsi le unghie. «D'altra parte Giuseppe sembra che ormai sia da escludere come erede del trono, da quando Napoleone ha adottato i due bambini, figli di Luigi e di Ortensia. Giuseppina lo tormenta giorno e notte perché lui dichiara eredi del trono i due nipoti di lei. E sai qual è l'infamia più grossa? Paulette spalancò gli occhi scandalizzata. Lei gli fa credere che se il loro matrimonio è senza figli, la colpa è di lui. Di lui, figurati. Ah, vedrò di far incontrare Madame Letizia con l'imperatore, dissi in fretta. Alla festa dei marescialli. Manderò Maria a dirti qualche cosa. Tu dovrai soltanto fare in modo che tua madre si trovi nel palco che ti indicherò. Oh, sei un tesoro, Eugenia. Signore iddio, come mi sento sollevata. Intinse il dito indice in un vasetto di rosso per la bocca e incominciò a passarselo con grande serietà sul labbro superiore. Poi strinse insieme le labbra per colorire anche il labbro inferiore. Recentemente un giornale inglese ha pubblicato un articolo scandalistico sul conto mio. Il mio piccolo violinista me lo ha tradotto. Gli inglesi mi chiamano il Napoleone dell'amore. Che sciocchezza! Si voltò a guardarmi. Intanto Napoleone ed io seguiamo una tattica completamente diversa. Lui vince le guerre offensive ed io perdo le mie battaglie difensive. Un immenso sorriso le guizzò sul volto. Beh, suppongo che i tuoi due cavalieri cominceranno ad impazientirsi, dissi io. Paulette balzò subito in piedi. Hai ragione, devo andare? Aspetto dunque il tuo avviso e poi manderò nostra madre all'opera. Siamo intese? Io penso che la mia piccola canaglia, il mio Oscar, potrebbe esigere da me un inchino di corte.